Mix 24 di Giovanni Minoli. C'est les clients du soir. Par terre, plein de sang. Et... ecco, questo sonore, queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Una cosa ci hanno insegnato con chiarezza: c'è una guerra di tipo nuovo che attacca il nostro mondo. Ad Antalya ieri si è concluso il G20. Di fronte alla tragedia di Parigi, presidente Silvio Berlusconi, buongiorno. Questo buongiorno. È un brodino caldo o una scelta di leader politici all'altezza? Ma questo lo diranno i fatti. È certamente positivo che i leader mondiali si parlino in un momento di crisi così drammatico e provino a realizzare quello che finora è mancato, cioè una strategia comune per fronteggiare sul piano politico, sul piano economico e soprattutto sul piano militare i drammi della nostra epoca. Ecco. Vedremo nel concreto cosa accadrà. Ecco. Credo comunque che il risultato più importante non sia venuto propriamente al G8, ma a margine, con il faccia a faccia fra Barack Obama e Vladimir Putin. Ecco. Stati Uniti e Russia devono tornare a parlarsi e a collaborare. Nel 2002, per merito del mio governo, lo ricorderanno bene tutti, stipulammo il trattato di Pratica di Mare che sancì la fine della guerra fredda e l'inizio di una cooperazione tra i paesi civili contro il terrorismo internazionale. Ecco, bisogna recuperare ripartire da lì, da quello spirito. Con lei ha detto, presidente, in Europa di fronte a questa guerra però manca la leadership, lo conferma? Lo confermo, purtroppo, lo dico con dispiacere e preoccupazione. In Europa c'è una drammatica carenza di leadership. Ecco. In particolare l'Europa si sta dimostrando incapace di gestire sia l'ordinaria amministrazione sia emergenze come quella del terrorismo internazionale e dell'immigrazione clandestina. Non c'è una politica estera comune e men che meno una politica di difesa comune. Ecco, oggi Hollande però bombarda l'ISIS, è quello che vuole la guerra. Hollande, va fatta questa guerra? Ma guardi, la guerra all'ISIS è una necessità per tutti i civili, i paesi civili, non solo di questo, di quello Stato, perché è uno scontro fra la nostra civiltà da una parte e chi invece come l'ISIS rappresenta l'odio, la superstizione, il terrorismo, che non è una singola nazione ad essere minacciata, ma tutto il mondo civile. E quanto ad Hollande, ho troppo rispetto per una nazione così crudelmente colpita per esprimere oggi giudizio e valutazioni sulla linea politica del suo presidente. Posso soltanto dire che la Francia in questi anni si è distinta per il suo interventismo deleterio, come dimostra il caso della Libia, che è capitato prima della presidenza Hollande. Presidente. Mi auguro che il sangue che è stato versato a Parigi serva non solo ad Hollande ma a tutti i leader europei per capire la necessità di estirpare il male alla radice. Ecco, però tutto comincia da lontano, da una guerra fatta a Saddam Hussein raccontando, diciamolo pure, delle balle alla gente, con le armi chimiche esibite come un rischio per l'umanità. È incominciato lì l'inganno sulla lotta al terrorismo? È cominciato con quella cosa. Io non ero d'accordo con quella guerra e cercai di convincere Bush e Blair a non farla. L'Iraq è una nazione con i confini che sappiamo decisi a tavolino nel lontano 1915, che contiene tre diversi gruppi etnici rivali da secoli e in più c'è una percentuale di analfabeti del 65%. È chiaro che una nazione così fatta non può essere governata come una democrazia, con un governo democraticamente eletto, ma solo con un regime, ecco, sperando ovviamente che non sia un regime sanguinario, ecco, ma era irrealistico. Irrealistica, quella guerra era irrealistica. Dopo la caduta della dittatura di Saddam, l'Iraq potesse funzionare come una democrazia. Certo. E infatti il problema è stata la cattiva gestione del dopo, l'impossibilità di individuare, di mettere in campo e di sostenere una classe dirigente irachena all'altezza. Ecco, presidente Berlusconi, poi c'è stato Gheddafi. Lei è pentito di aver accettato, seppure a malincuore, si sa, i bombardamenti contro Gheddafi? Ma guardi, io non li ho accettati, li ho subiti esprimendo tutta la mia contrarietà, e non c'era niente da accettare perché i bombardamenti erano già in corso. Il 19 marzo 2011 a Parigi, quando c'è stato il vertice cruciale dove si sarebbe dovuto stabilire una posizione comune sulla Libia, quando io e gli altri capi di governo siamo arrivati, venimo a sapere che Sarkozy aveva già mandato in caccia a bombardare le truppe di Gheddafi. Senta, quindi... E poi tra l'altro questo fatto fu un errore gravissimo, perché a pagarne le conseguenze ancora oggi siamo soprattutto noi, certo, dato che il 90% dei migranti che arrivano in Italia partono proprio dalla Libia. Ecco, senta, ma senza un accordo tra Putin e Obama quindi non si può risolvere il problema in Siria? Non è possibile. Ecco, lei è un amico di Putin, l'ha visto recentemente. Qual è la linea di Putin? Ma guardi, da mesi Putin va suggerendo di creare una coalizione internazionale contro l'ISIS, ma l'Europa, che poi dovrebbe essere, come dicevamo, la più interessata a partecipare, visto che è in Europa che si riversano i rifugiati che scappano dal califfato, l'Europa invece di collaborare con la Federazione Russa ha tentato di isolarla e le ha inflitto sanzioni economiche assurde, che vanno tolte, insomma, che oltretutto recano danno alla stessa economia europea. Vedi, la linea di Putin è quella del realismo e della consapevolezza. Lui è un patriota russo, è un patriota che non ha esitazione nel difendere i diritti del suo paese, ma è un uomo con una visione molto lucida delle relazioni internazionali. È costretto a prove di forza con l'Occidente, che non vorrebbe, non avrebbe ragione di fare se prendessimo sul serio, per esempio, il diritto all'autodeterminazione dei popoli, come per esempio in Crimea e in Ucraina. Quindi Putin è consapevole della necessità di un'azione comune contro il terrorismo, ecco, ma non è disposto ad aspettare le incertezze e le paure dell'Occidente. Lo ha fatto in Siria nell'unico modo possibile e ha accettato anche di pagare un prezzo per questo. Ecco, un'ultima cosa, presidente Berlusconi, lei pensa di aver pagato anche per le sue scelte in politica internazionale? Sì, certamente. Ma è un discorso che dovrebbe essere più esteso e ne parliamo un'altra volta. Va bene, grazie presidente. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ecco, fin qui abbiamo sentito l'opinione del presidente Berlusconi, amico di Putin, leader di opposizione in Italia. Adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24. Dentro la notizia. Non lo so quanto. La strage di Parigi è un punto di svolta nella storia contemporanea, l'abbiamo detto. L'ISIS ci ha dichiarato guerra, ma noi siamo pronti? Questa è la domanda di oggi. Professor Sergio Romano, ex ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera. Per lei, professore, lo chiedo anche a lei, il G20 di Antalya ha risolto qualcosa? Beh, si sono scambiate delle idee e hanno probabilmente dei punti di vista un poco più chiari. Forse la Turchia sta cambiando gradualmente la sua politica e sta diventando un alleato. Qualche contatto fra americani e russi in questo caso può insomma dare poca roba. Ma non lo so, perché mi sembra che qualche cosa stia accadendo sul fronte iracheno e siriano. Ecco. Mi pare che ci sia la consapevolezza del fatto che senza unità non si combinerà mai nulla. Ecco. E se questo passa, mi pare che la cosa potrebbe anche cambiare. Senta, professore, andiamo sul concreto. Si può fare la guerra fredda contro la Russia, quella calda contro l'ISIS, ancora? No, non si può fare, non si sarebbe mai nemmeno dovuto tentare di farlo. Questo veramente il grosso errore commesso dagli Stati Uniti e non soltanto dagli Stati Uniti nel corso di questi ultimi tempi. E quindi la contraddizione di Obama rischia di far deflagrare l'Europa anche? Credo che Obama ne sia consapevole, certamente ne è consapevole il suo segretario di Stato, che mi pare in questo momento la persona più assennata nella politica estera americana. Se Obama e Putin ristabiliscono un rapporto, la guerra contro l'ISIS diventa infinitamente più semplice. Quindi, ma è un problema di leadership tra di loro, anche di personalità, oltre che di linee politiche. Non è soltanto quello, credo che uno dei fattori più importanti sia la riluttanza in una parte della classe dirigente americana, soprattutto militari, di rinunciare a uno stato di tensione in cui naturalmente la componente militare diventa indispensabile. Certo. Senta, però anche Roosevelt e Churchill si sono accordati con Stalin per battere Hitler, quindi un accordo tra Putin e Obama deve esserci per forza. Sì, anche e soprattutto perché non confronterei Roosevelt con Obama e Stalin con Putin. Mm. Senta, professore, lo diceva già anche lei prima, la Turchia però gioca sporco, perché sta nella NATO ma reagisce agli attentati, non colpendo l'ISIS, ma i peshmerga curdi che combattono l'ISIS. Ma è un'ambiguità tollerabile nella NATO questa? Mi sembra che la Turchia abbia quantomeno due scusanti, o forse due alibi. Il primo alibi è che noi gli abbiamo chiuso la porta dell'Europa. E nel momento in cui le abbiamo chiuso la porta dell'Europa, la Turchia ha cercato una diversa collocazione internazionale, una diversa politica estera. Certo. Professore, un'ultima cosa. Lei crede che adesso col Giubileo toccherà l'Italia? Penso che l'Italia è certamente fra gli obiettivi possibili. Non c'è dubbio, ce lo hanno detto così chiaramente. Appunto. Ma credo anche che in questo caso veramente cedere sul piano del Giubileo, chiedere alla Chiesa Cattolica un ripensamento, alla Santa Sede un ripensamento. Anche perché il Papa ha detto di no, ha detto che lo fa. Comunque, tra l'altro ha detto che lo fa e mi pare che sia anche giusto che lo faccia. Ecco Mario, c'è un filo rosso che parte da Bin Laden e arriva all'ISIS. Sì, tra al-Baghdadi, che è il leader di ISIS, e Bin Laden, che è stato il fondatore di Al-Qaeda insieme al-Zawahiri, c'è di mezzo al-Zarqawi, che pochi ricorderanno, ma era il leader di Al-Qaeda in Iraq, che sognava una guerra totale, fece crollare tutte le istituzioni irachene o quasi in quel momento, e guarda caso è la stessa strategia di ISIS, usava una violenza senza limiti. Contro le istituzioni, i gruppi sciiti e così via. Da quel momento la carneficina non si è mai fermata, anche dopo l'uccisione di al-Zarqawi si sono moltiplicate le cellule e non a caso sono poi alcune confluite da Al-Qaeda a ISIS. È molto interessante tutto questo perché chiaramente c'è un tema di strategia su come affrontare poi queste cellule terroristiche. E quindi Pietrangelo, c'è un legame tra ISIS e Al-Qaeda? Sì, c'è un legame, c'è stato anche una sorta di cambio di scena, perché da quando noi avevamo a che fare con Al-Qaeda, potentissima, pericolosissima e letale, immediatamente è arrivato un nuovo protagonista. Nessuno mai ha potuto capire o ha cercato di sapere perché mai l'una cede il posto all'altro. Il filo è comunque lo stesso, il copione identico, ed è precedente a tutte le storie che conosciamo sul terrorismo, perché purtroppo c'è una mala pianta all'origine di tutto ciò, ed è il wahhabismo, cioè un'interpretazione letteralista, maniacale, fanatica dell'Islam, che purtroppo è a fondamento anche di nazioni alleate nostre. A cominciare dall'Arabia Saudita, che negli anni 70 hanno sviluppato potentemente la loro presenza fino a creare una vera e propria eresia nella religione islamica, a maggior ragione in Occidente, fino ad arrivare in California, se pensiamo anche agli interessi di chi ha fatto sì che questa forma deviata di religione prendesse il sopravvento anche per determinare delle scelte politiche. Ecco, abbiamo collegamento da Parigi, lo ringrazio, Presidente Enrico Letta, buongiorno. Parliamo della politica di oggi. Le parole di Hollande, che ha parlato di atto di guerra, sono parole che fanno scattare automaticamente l'articolo 5 del trattato della NATO, che obbliga gli aderenti a impegnarsi militarmente quando un alleato è attaccato. È così o no? Credo che lui le abbia dette per questo motivo, immaginando comunque di lasciarsi aperte tutte le opzioni. Questo è stato il punto chiave fin dall'inizio. Adesso si tratterà di capire anche in queste ore ad Antalya che cosa verrà deciso e quali saranno i punti di intesa. È stato utile che si siano parlati Obama e Putin, sicuramente quello è stato un passo avanti. Ma può tornare indietro eventualmente Hollande senza perdere la faccia? Ma sa, qui il problema non è la faccia, il problema è che Parigi, la Francia, si è scoperta vulnerabile come mai si poteva immaginare. La vita in queste 48 ore a Parigi è stata una vita scandita dalla paura, dal terrore. Qualunque assembramento, certo, ha vissuto momenti di... Abbiamo visto, basta un petardo per bloccare lo spavento si diffonde subito naturalmente. Oggi gli ingressi qui dell'università sono ingressi presidiati da forze dell'ordine, si entra soltanto dopo controlli. Penso che sia la Francia ha scoperto una vulnerabilità che alla fine poi purtroppo non è solo francese, è di naturalmente tutti noi, quindi bisogna riflettere su cosa questo vuol dire in prospettiva. Ma il ritardo dell'Occidente nell'affrontare l'offensiva dell'ISIS è figlia di una mancanza di leadership in Occidente anche, Ma è figlia sicuramente degli errori che ci sono stati. Io penso che uno degli errori sia stato sicuramente legato, non è un caso che ISIS si infila tra Iraq e Siria. Certo. Iraq e Siria sono i due grandi buchi neri di questi 15 anni, buchi neri anche della politica occidentale, della mancanza di concertazione, della difficoltà, delle fatiche, quindi oggi sicuramente questa è conseguenza di queste scelte sbagliate. Ecco, parlava di Antalya lei, naturalmente senza un accordo comunque tra Putin e Obama gli equivoci continueranno. Sicuramente, è un fatto positivo che si siano parlati. Io ricordo sempre quando nel vertice di San Pietroburgo del 2013, il settembre 2013, non era ancora stata fatta la rottura sull'Ucraina tra la Russia e il resto dei paesi occidentali, non si parlarono perché sulla Siria erano in contrasto, Obama voleva intervenire contro Assad e invece Putin difendeva Assad, e alla fine si parlarono un po' come si sono parlati ieri in un angolo, poi dopo l'Ucraina ha fatto, la vicenda ucraina, certo, ha fatto saltare tutto, ma è evidente che c'è bisogno di un'intesa. È necessario, ecco Presidente, però la NATO come fa a accettare l'ambiguità della Turchia che dicendo di fare la guerra all'ISIS invece bombarda i curdi che combattono l'ISIS? Ma è anche questo è il punto. Fino a oggi la vicenda ISIS è stata una vicenda che non è stata fino in fondo presa sul serio perché troppi in troppi l'hanno usata per regolare propri conti personali, hanno usato l'alibi quindi di una guerra da fare per farla poi contro chi gli pareva a loro. Da fare o questo... d'affari? Perché sembrava quasi un lapsus. No, purtroppo tutte e due le cose. Ah, tutte e due le cose, esatto. È il tema che ci troviamo di fronte. Oggi improvvisamente abbiamo tutti capito e scoperto che cosa vuol dire che invece la nostra comunità, la nostra società oggi è sotto attacco come mai era successo. Ecco, ma Presidente Letta, chiedo anche a lei, come chiedevo all'ambasciatore Romano, come si fa a voler fare la guerra fredda alla Russia e quella calda all'ISIS contemporaneamente? Credo che sia impossibile, molto semplicemente. E quindi le sanzioni vanno tolte all'Unione Sovietica, alla Russia? Adesso non sono in grado, non ho gli elementi per tirare conseguenze così dirette, ma lei che pensa che... Certo, è che bisogna su questi temi avere un atteggiamento che tenga conto che oggi c'è una priorità. La priorità è estirpare il male assoluto che viene dall'ISIS, da questo fondamentalismo, è un fondamentalismo che vuole distruggere le radici, la nostra società, il nostro modo di vivere, e se la prende con tutti. Sono 14 le nazionalità, da quello che hanno contato, dei morti di Parigi, certo. Tutte le c'è di tutto proprio, ecco, tutto. Ma Presidente Letta, ma una cosa però sembra chiara: il ritardo dell'intelligence occidentale rispetto a queste nuove forme di attacco, è vero? Ma guardi, io sembra quasi che ci sia troppa tecnologia e poca conoscenza di uomini, culture e territori. Secondo me c'è poca integrazione tra le intelligence e tra i servizi di sicurezza e di reazione. Noi abbiamo su questi temi, io lo vedo ogni volta che dico questa cosa, poi vedo le reazioni anche sui social network che sono un disco rotto, che dico che ci vuole più Europa, certo, e mi si risponde ma come, ancora di più. Invece è proprio così, nel ce senso che su questi temi non c'è l'Europa. Certo, nel senso che su questi temi ogni paese ha voluto tenersi gelosamente le proprie competenze, le proprie prerogative. E quindi? La sostanza è che non siamo in grado di reagire. Quindi terrorismo globalizzato, intelligence individuale invece. E non funziona, basta vedere cosa è successo in queste 48 ore tra Francia e Belgio. Esatto. Terroristi che sono Bruxelles, Parigi, eccetera, e ognuno aveva le sue informazioni. Soprattutto non è stato delegato nulla a livello europeo, non esiste nulla tutto questo. Come si fa? Presidente Letta, Prodi dice che le guerre non si vincono però coi droni ma con gli scarponi, è vero? Ma credo che tutta questa vicenda sia figlia, secondo me, degli errori che sono stati fatti in Iraq, cioè alla fine Prodi dice una cosa che è puro buonsenso, è verità. Certo. Cosa è successo in Iraq? È che l'esito di una guerra sbagliata ha portato che cosa? Ha portato le nostre comunità, pensiamo anche alla comunità britannica, che oggi non sopporterà mai più, dopo tutto quello che è accaduto con Blair, eccetera, perdite umane. Certo. Rispetto a guerre. Quella guerre costruite su delle bugie, le nostre società non sono più in grado di reggere una situazione di questo genere, perché hanno vissuto quegli errori. Certo, Presidente Letta, il Papa dice il problema è di capire chi ci guadagna con questa guerra, ecco il lapsus di prima, chi ci guadagna, chi vende queste armi? Beh, lì c'è tutto il tema di che cosa è successo in Arabia Saudita, nei paesi del Golfo, di cosa succede chi sono i finanziatori veri di tutte queste vicende, e anche oggettivamente, come diceva Pietrangelo, Buttafuoco, sì, prima. Ma Buttafuoco ha ragione, Buttafuoco ha ragione, e sono tutte percorsi finanziari che vanno ricostruiti, incomprensibili, che sfuggono, ma che sono figli di logiche insopportabili e di cui oggi paghiamo i prezzi tutti. Ecco, Presidente Letta, ieri Gino Strada, in trasmissione con lei, da Lucia Annunziata, diceva: tutto è cominciato perché i governanti non dicono la verità, come per la guerra in Iraq, l'abbiamo un po' detto, le finte armi di distruzione di massa. Ecco, qual è la verità che non si dice oggi? Là è stata la bugia delle armi all'ONU. Guardi, non lo so qual è la verità che si dice oggi, so soltanto che oggi c'è una comunità nazionale, ci sono dei figli, c'è una comunità fatta di giovani europei che dobbiamo difendere. A me ha colpito oggi, vi invito a guardarla, la prima pagina molto efficace del quotidiano francese Libération, che mette non i temi della guerra, della pace, delle risposte, della politica, ma mette in prima pagina i giovani del Bataclan. Certo. E mette in prima pagina che cosa? Il fatto che loro erano l'obiettivo di questi tagliagole, perché sono ed erano dei giovani cosmopoliti, dei giovani integrati, la solidarietà, basta pensare alla giovane nostra che è caduta, italiana, che è caduta lì dentro in questa situazione così terribile, persone positive che vivevano integrate, cosmopolite e positive. È questo tipo di convivenza che si tenta di distruggere, naturalmente. Ecco, in realtà però questa è soprattutto, e si dice poco, una guerra civile tra sunniti e sciiti. Perché l'Europa si è infilata in un modo così violento? Non lo so, la verità è che l'Europa in quanto tale non si è infilata, cioè, sono i singoli paesi europei, ognuno per conto suo, che si è mosso si è mosso senza grande concertazione. Quindi, come diceva prima, c'è una capacità dell'Europa di agire in comune oppure no? E io dico, ci deve essere una capacità dell'Europa di agire in comune, sia su questi temi di politica estera, sia sulla difesa delle nostre comunità. Se non agisce, se non riusciamo ad agire tutti insieme, non riusciremo a dare sicurezza ai nostri cittadini, e questo lo trovo il rischio più grande. Senta, Presidente Letta, lei ha un consiglio da dare al governo italiano? Di essere più spinto su questa pista europea, nel senso che anche noi italiani, col Giubileo alle porte, abbiamo tutto l'interesse a che ci sia un lavoro collettivo e comune, e se non c'è una capacità di fare l'intelligence europea, di fare una reazione europea, di fare una sicurezza europea vere e integrate, ma ognuno va per conto suo, le falle saranno quelle nelle quali i terroristi si muoveranno. E poi la seconda cosa, io credo che il nostro paese debba mettersi all'avanguardia nel dire con grande forza oggi: non facciamoli vincere i terroristi. Uno dei motivi su cui vincono è, per esempio, se passa l'equazione i rifugiati sono terroristi e i terroristi sono rifugiati. I rifugiati sono le vittime dei terroristi, sono scappati attentati dei terroristi. E quindi io credo che anche questa riflessione, che è di cultura profonda, che dobbiamo... Ma perché il nostro governo non fa questa riflessione, secondo me? No, ma è l'opinione pubblica. No, dicevo un consiglio da dare al governo. Bisogna il più possibile essere forti su dare questi messaggi. Ecco, l'opinione pubblica è facilmente su questi temi si fa prendere da sentimenti che sono sentimenti di reazione, sentimenti anche assolutamente comprensibili. Senta, Presidente Letta, un'ultimissima cosa, perché so che deve andare a insegnare. Lei appunto insegna all'Università a Parigi. Cosa vorrebbe essere sicuro di insegnare ai suoi allievi? Intanto che cosa insegna esattamente? Oggi abbiamo proprio sul tema delle integrazioni europee, seminari e lezioni. Vorrei che si insegnasse innanzitutto che i valori della tolleranza e della libertà, che sono i nostri valori, rimangono e devono rimanere i nostri valori anche nel momento nel quale rispondiamo e reagiamo alla minaccia più dura che ci sia mai capitata, cioè reagire a questa minaccia senza derogare ai nostri principi di libertà, di tolleranza, di solidarietà. Si batte la morte con la vita. Grazie. Non è possibile fare altrimenti. Grazie Presidente, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS è comario. In fondo l'ISIS sarebbe un avversario battibile, ha circa 40.000 uomini sul campo, però nessuno, appunto, come già Prodi, gli scarponi non ce li vuol mettere nessuno. No, perché si è diffuso il mito del zero perdite. Mi dispiace essere molto duro su questo, ma noi dobbiamo decidere che cosa è accettabile per noi. 130 morti e centinaio di feriti a Parigi non bastano? E vorrà dire che ce ne saranno altri, perché se tu non dai un segnale ai terroristi, loro continueranno a agire fuori dal loro territorio. È un'illusione intervenire solo in casa nostra. Io ricordo che le guerre si devono combattere, purtroppo. Gli americani hanno perso 5.000 uomini in Iraq, 30.000 in Vietnam. La seconda guerra mondiale, vorrei ricordarlo a quelli che hanno la memoria corta, è costata 70 milioni di morti tra civili e militari. Questa. La realtà è questa. Se questa noi la chiamiamo guerra, per me lo è, non va combattuta. Su questo va combattuta, altrimenti oggi è Parigi, domani è Roma, poi sarà di nuovo Londra e poi sarà Madrid e così via. Allora, non scherziamo su questo. Pietrangelo, tu sei credente, che cosa non ti convince delle notizie, dei commenti fatti su Parigi, se c'è qualcosa che non ti convince? No, invece è il contrario, appunto, mi sono convinto dello stato delle cose. Il terrorismo ha messo a segno 3 colpi, ed è stato quello di scannare, e ha scannato, quello di spaventare, ci spaventa, e quello di sfregiare la religione, quella del Dio clemente e misericordioso, facendone un marchio di morte. La convinzione, ecco, è solo un fatto dato dalla realtà. Ecco, vi lasciamo con una canzone, un capolavoro che fa riflettere, La guerra di Piero, di Fabrizio De André. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa un veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Mix 24. Naturalmente tanti sms di ogni genere sulle diverse posizioni da tenere nei confronti dell'ISIS, ma soprattutto vedo che interessa molto, molti nostri ascoltatori, il problema dell'intelligence, e allo stesso dice qualcuno della polizia che si concentra sulla tecnologia, sulle intercettazioni e trascura la presenza sul territorio. Ecco, questo mi sembra una cosa. C'è una notizia. Corinna, dimmi. Su questo punto, sull'intelligence, il responsabile degli esteri iracheni ha appena confermato che avevano avvisato la Francia su imminenti attacchi allo Stato islamico. È uscita adesso, è un agio. Corinna dice: occorre riflettere se l'Iraq è frutto dell'11 settembre. Beh, certo, c'è tutto un filo rosso di cui hanno parlato sia Pietrangelo che Mario. Intanto, Pietrangelo, la canzone di oggi. Shadows settle on the place that you left. Troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the past. finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause allora, ombre che si prendono spazio nel vuoto, altro che immagini. È uno spreco di tempo, un incendio di pietà. Un giorno si sveleranno le visioni del futuro alla gioventù. E la canzone dice questo e aggiunge: e se voi state respirando ancora, siete quelli fortunati. La canzone di oggi è questa. Bolla cattiva, Mario? Sì, che è anche riflessiva. Allora, non cambieremo certo Bill Conti, perché noi siamo nella serie The Show Must Go On e certo, la vita continua, e però sto sul filo dei fatti, degli accadimenti, quindi seguo, diciamo, le reazioni alla strage di Parigi, e ci sono due cose che secondo me sono il doppio specchio di una realtà un po' diversa, una del Regno Unito e l'altra è quella italiana. Nel Regno Unito David Cameron ha appena annunciato l'assunzione di 2000 unità in più per le agenzie di intelligence, appunto, della Gran Bretagna. In Italia invece stamattina ho letto con grande interesse un pezzo che c'era sul Sole 24 Ore, era strillato anche in prima pagina, c'è l'annuncio di più soldi per la difesa e sicurezza. Poi sono andato a controllare bene e non c'è ancora il contenuto del provvedimento, ci sarà un emendamento dopo, e io, diciamo, no, come lascito ai posteri, come avviso ai navigatori, come ho scritto, dico che se devono dare più soldi alle forze dell'ordine, per carità, va bene, sono anche dovuti, si diano, ma non si pensi che sia questo il modo per risolvere il problema numero uno che abbiamo noi, e cioè quello di difendere i nostri confini. Quindi se ne ricordino, se è un problema di aumento di fondi non cambierà assolutamente niente, deve cambiare strategia e più persone, quello che sta facendo il Regno Unito in questo momento. Salamino. Passa in secondo piano l'effetto collaterale dell'equazione Islam uguale terrorismo, e non c'è il tempo ormai per salvare quei distinguo, la perfetta bellezza di una civiltà e di una fede. Adesso è urgente combattere il Satana terrorista che uccide in nome di Dio, con la consapevolezza matematica di realizzare l'impietà. Il terrorismo guadagna un vantaggio, che è quello di disarmare tutti noi e di toglierci, con la speranza, la memoria. Abbiamo davanti agli occhi i volti degli innocenti scannati a Parigi, ma dimentichiamo tutto subito. Due giorni prima delle stragi a Parigi, un attentato a Beirut porta alla morte 42 persone, 224 anime. Appena due settimane fa trovano la morte nell'aereo abbattuto sul Sinai. Sono russi, e sebbene la Russia stia combattendo Satana in Siria, schiacciando quei terroristi che per molti occidentali sono solo ribelli, in Occidente l'indignazione si alza sul doping. E a proposito di Russia, ricordare che il 23 ottobre del 2002, 850 ostaggi al teatro Dubrovka a Mosca. E tra il 1 e il 3 settembre del 2004, nella scuola numero 1 di Beslan, in Russia, vengono trucidate 333 persone, 186 di loro bambini. Allora, e l'abbiamo detto prima, era Al-Qaeda. Oggi è l'ISIS. Il copione è identico. Scannare, spaventare e sfregiare la religione del Dio clemente e misericordioso in un marchio di morte. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò. Ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Come ha detto il Papa ieri, una bestemmia usare Dio per raccontare le balle alla gente e difendere sì. gli assassini. C'è un aggiornamento a proposito della mia bolla di prima, non l'ho fatto apposta, giuro. Però Renzi ha appena detto da Antalya in Turchia che la legge di stabilità entra in Parlamento con più soldi per la sicurezza, se poi il Parlamento vuole aumentare siamo ben disposti a discutere, lui dice. Vabbè. Io ribadisco, se sono soldi per le buste paga va dipende benissimo, per cosa. Ma forse c'è da fare altro. Senti, c'è ancora una bolla sì. divertente. Sì, sembra, molto Mario? Divertente. Sì. Non ho ucciso il dottor Lenin. Perché ti nascondevi sul luogo del delitto? Non ho ucciso il dottor Lenin! Si può parlare di omicidio solo quando un essere umano ne uccide un altro. Non mi dirà che proprio lei suggerisce di trattare questo robot come un umano. No, questo era un film famoso, Io Robot, molto bello, ispirato ad Asimov. E insomma, ho letto una cosa che commentavamo stamattina quando preparavamo la trasmissione con Giovanni e Pietrangelo, ed è molto interessante. E c'è un robot che va all'università. Un robot che va all'università? Sì, perché un programma sviluppato dall'Istituto Nazionale di Informatica giapponese ha superato i test per entrare all'università. Tra gli esami sostenuti ci sono inglese, matematica e fisica. Il punteggio realizzato è stato di 511 su 950, Pietrangelo. Sai di quant'è la media nazionale giapponese in questi test? 416. Quindi questo robot sta è già, sopra, è già sta presidente sopra di una società giapponese. Pare che il programma di intelligenza artificiale utilizzato sia stato eccezionale in matematica e storia. Il mio commento qua, sai cos'è? Banzai. Siamo fritti. Se lo Banzai fanno anche che conducono le trasmissioni radiofoniche, qua ci dobbiamo trovare un lavoro. Ci appelliamo a Roberto Napoletano, non usare i robot. Mai, canzoniere. Anch'io tra i morti vi saluto. Rosso, alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo, amati. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666, sms aiutino? Aiutino sì, l'ho preso da una tua trasmissione. Da una mia trasmissione? Sì. Ah, allora lo so, me lo ricordo. Entrare a Ghidarama non è facile, siamo i primi europei ad entrare con le telecamere e saremo anche gli ultimi, dopo di noi non entrerà più nessuno. Il capo della sicurezza ci farà un lungo discorso, ammette che quello che vedremo là dentro ci lascerà sconvolti, che là dentro c'è troppa gente, ma ci ricorda che sono detenuti accusati di genocidio, e cioè colpevoli dei massacri, dei morti nelle chiese, dei morti nei fiumi. Entriamo. Prigione Ghidarama, struttura per 400 persone. A maggio 95 i prigionieri erano 7.000, mortalità complessiva in 9 mesi 902 persone, un morto ogni 8 vivi. Camminiamo a tentoni, inciampando, mantenendoci per non scivolare. E ora siamo nella stagione secca, non riusciamo a immaginare cosa può essere questo cortile quando piove per mesi. E qui, chi è dentro, chi è fuori è fuori. Lo spazio è un miracolo, i letti chissà dove sono. L'inferno deve essere così. Questa è Marcella De Palma nell'Inferno del Ruanda, il 1995. Marcella è a Kigali per una delle sue straordinarie inchieste di Mixer. Il Ruanda ha appena vissuto la tragedia del genocidio, uno dei più spaventosi della storia recente, ma non l'unico scatenato dall'odio etnico dei fratelli contro i fratelli. Genocidio, la vendetta. Ruanda ed ex Jugoslavia, i testimoni, le analisi, i segreti mai rivelati. A Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mix 24. Mario, c'è ancora una bolla, no? Sì. Io non creo niente, io posseggo. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Allora, e il libero mercato è sempre per restare sull'onda dei fatti, delle notizie, per dare interpretazioni della realtà che possono essere utili a tutti per capire quanto i fatti di Parigi impattano sulla nostra vita quotidiana. E in borsa oggi le azioni di Eurotunnel stanno andando male, credo che non sfugga il perché ai nostri ascoltatori, perché è un obiettivo sensibile. Stanno andando male i titoli delle catene alberghiere francesi, anche questo credo che non sfugga agli intelligenti, e certamente stanno andando male i titoli del lusso francese, anche qua consumi, e quindi l'impatto è stato immediato, è stato molto grande. Sì, naturalmente poi negli indici complessivi le perdite sono per ora contenute, speriamo che lo restino. Però di certo quando accadono questi fatti ci sono interi settori dell'economia che rischiano di soffrire. La borsa poi è molto emotiva e quindi naturalmente reagisce subito. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. The Lancet, 28 settembre 2015. Una combinazione di farmaci che aiuta gli ultra sessantenni con depressione resistente. Che cosa bisogna fare contro la depressione resistente? Bisogna in questo caso fare una accoppiata di farmaci, perché la depressione è una bruttissima bestia e il 50% non risponde ai farmaci antidepressivi. Allora si è visto che l'unione tra la venlafaxina, che è un tradizionale antidepressivo perché lavora sui meccanismi della serotonina, che è il neuromediatore implicato nella depressione, si è visto che se la dai qua è stato provato in quasi 500 ultrasessantenni, si è visto che appunto il 50% dopo 12 settimane era assolutamente depresso come prima. Gli si è aggiunto un antipsicotico, l'aripiprazolo, e si è visto che il 50% di questo 50%, cioè la metà della metà, rispondeva, e dopo altre 12 settimane queste persone erano libere dalla depressione. Allora, diciamo che non voglio dire che non ci sono scuse, ma che oggi la terapia farmacologica ben fatta e ben dosata può dare la soluzione a quello che è un tipico problema dei nostri tempi. 100 anni fa la depressione era una forma quasi letteraria, oggi è una malattia che accompagna un mucchio di persone, e questa accoppiata per la prima volta dà la dimostrazione che si può facilmente con ragionevolezza combattere. E per chiudere, Gino Paoli in una lunga storia d'amore. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più ti conosco da sempre, ti amo.